Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. O Gesù, oggi dinanzi a te vogliamo pregare per tutti i sacerdoti. Grazie Gesù per tutti coloro che aiutano i sacerdoti. O Gesù, donaci un immenso amore per la tua Chiesa. Fa che i sacerdoti, con il sudario della consolazione, possano pulire il tuo volto nei miseri, nei disprezzati, negli sfiduciati. Non farci mai dimenticare la tua parola. Tutto quello che avete fatto al più piccolo, lo avete fatto a me. Gesù, nel sudario sacerdotale sono impressi il tuo volto e quello di tua madre. Fa che possiamo vederti e riconoscerti. Fa che attraverso le nostre gocce di sudore possa scorrere l'acqua della conversione e della salvezza per tutti i nostri fratelli e sorelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se ti fossi stata accanto, forse che non avrei pianto, o Madonna, anch'io con te.